Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 1 giugno, la prima delle due edizioni di Italia in controluce. Vi parla Daniele Biacchissi. Il viaggio d'Italia in controluce nelle città raccontate dai nuovi sindaci. Oggi Jacopo Matano ha intervistato Gianni Giovannelli, sindaco di Olbia. Bisogna fare tutta una serie di atti importanti che purtroppo in questi ultimi tempi hanno avuto una battuta d'arresto. C'è stato un periodo abbastanza lungo di crisi della mia ex maggioranza. A quel punto io ho lasciato il PDL, che era il mio partito, e ho aggregato intorno a me una grande coalizione civica che va da FLI a SEL, e abbiamo vinto al primo turno con oltre il 52%. Si è parlato di Olbia in queste elezioni amministrative perché il suo è stato una sorta di esperimento di CLN nazionale dell'opposizione a Berlusconi. Sul suo sito però c'è ancora scritto consigliere regionale di Forza Italia. Tornando indietro, cambierebbe la scelta? No, io ho fatto il consigliere regionale di Forza Italia per 3 anni nell'interesse proprio del mio territorio, del territorio che rivendicava per esempio l'istituzione della nuova provincia di Olbia, di Olbia Tempio, cosa che purtroppo, guarda caso, ironia della sorte, è legge che porta il mio nome e legge che è stata approvata grazie a me quando all'ultimo momento il centrodestra decise di votare contro. In questo caso del comune non sono io che mi sono dimesso, è stata una congiura fatta da un ex sindaco che voleva ritornare a fare il sindaco, che insieme alla maggioranza dei consiglieri ha deciso di rassegnare le dimissioni mandandoci tutti a casa, non facendo i conti però su quella che sarebbe stata poi una ribellione da parte della città. Passando adesso ai problemi di Olbia, si parla molto spesso della Olbia-Sassari, la cosiddetta strada della morte, e se ne discute specialmente per ciò che riguarda il suo ampliamento. A che punto siamo? Siamo all'ennesima promessa che a breve dovrebbero partire i primi 2 chilometri e 600 metri su circa 80-90 chilometri, con un finanziamento che dicono che sia disponibile, però puntualmente poi il CIPE non dà segnali confortanti in questo senso, e di conseguenza ecco, siamo sempre alle solite promesse avanzate in campagna elettorale o in prossimità delle campagne elettorali. Lei in che modo si è impegnato su questo tema e in che modo si impegnerà? Per quello che può fare un sindaco può solo mobilitare la popolazione, sollecitare le istituzioni regionali e nazionali. Ecco. Forse con un po' di difficoltà, visto che appunto l'amministrazione a livello regionale e a livello nazionale in questo momento è dall'altra parte, o meglio nella parte in cui lei stava, in cui non è più. Esatto, però c'è il problema che se non si danno risposte convincenti, ma veramente convincenti e concrete, c'è il rischio che a brevissima scadenza questa stessa fine la faccia sia la provincia che la regione, che altri comuni importanti. Senta, che estate sarà per Olbia con il caro traghetti? Un'estate difficile, l'intervento fatto dalla regione è un intervento apprezzabile, cioè quello di istituire queste nuove linee regionali, però purtroppo è abbastanza tardivo, perché sembrerebbe che le prime corse partiranno il 15 di giugno, ma ovviamente i tour operator lamentano il fatto che il grosso delle prenotazioni sono andate via. Poi puntualmente avremo un agosto scintillante, ci sarà il tutto esaurito, però voglio dire, a noi non interessa tanto il periodo di agosto quanto i mesi di spalla, e questo purtroppo ha penalizzato gli operatori del settore. E sempre Jacopo Matano ha sentito Giovanni Di Giorgi, nuovo sindaco di Latina. La prima cosa da fare è quella di ricucire un feeling con la città, quindi di far capire che c'è un nuovo sindaco che gli piace stare in mezzo alla gente, un sindaco che vuole essere concreto nella semplicità. Ricostruire questo feeling, anche perché io ieri sono stato il candidato di una coalizione, oggi sono il sindaco di tutti e quindi devo pensare a tutti quanti i problemi della città. Lei ha parlato di feeling. Latina viene da più di un anno di commissariamento dovuto alle divisioni interne al centrodestra che da sempre storicamente governa la città. Questo ha avuto ripercussioni sul rapporto tra la politica e i cittadini? Questo